Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è Italia in controluce, la seconda edizione quotidiana, quella che racconta l'Italia. La rassegna dei libri sulle mafie si terrà dal 22 al 26 di giugno a Lamezia Terme. Ogni giorno nelle piazze del centro storico i cittadini potranno ascoltare scrittori, giornalisti, protagonisti delle battaglie per la legalità, tra cui molti giudici e personaggi della società civile. Il direttore artistico del festival è Lirio Abbate, intervistato dalla nostra Alessandra Tedesco. È un festival che in 5 giorni racchiuderà più di 60 autori di libri sulle mafie che sono stati scritti, pubblicati negli ultimi 2 anni, nel cuore della Calabria, al centro di un territorio governato purtroppo dalla 'ndrangheta, dove forse, noi speriamo ma ne siamo convinti, che la forza della cultura, della letteratura antimafiosa può far risvegliare le coscienze. Quale può essere appunto il valore di libri sulla mafia? Quello di raccontare e denunciare tutto quello che purtroppo ogni giorno vediamo camminando, vivendo il territorio, che non possiamo trovare o leggere sui giornali, forse per mancanza di spazio. Un libro può sviluppare, può raccontare, può analizzare certi fenomeni, ma soprattutto può fare dei nomi. Quello che Trame, che è il festival che faremo dal 22 al 26 giugno alla Venezia Terme, ha un obiettivo finale, che tutti questi autori alla fine faranno dei nomi, racconteranno dei nomi, e tutto quello che è l'inchiostro, che è l'arma micidiale per certi collusi che vogliono restare nell'ombra, ecco, li tirerà fuori. E la forza di un festival del genere è quella di mettere insieme autori e protagonisti di una campagna letteraria e saggistica contro le mafie, per la prima volta insieme a confrontarsi, a parlarsi, a raccontare, a scuotere un territorio. Fra i tanti libri sulle mafie mi viene in mente ovviamente Gomorra, no? Un libro che insomma ha scatenato l'attenzione insomma degli italiani. Può effettivamente un libro cambiare l'atteggiamento degli italiani sulle mafie? Tanti libri lo possono fare, tanti libri possono cambiare l'atteggiamento. Un libro fatto, raccontato, se pubblicizzato, se raccontato bene, può cambiare l'atteggiamento, o con qualche modo può dare un segnale, può accendere una luce, un riflettore dove altri si possono affacciare. Che cosa può dare un insieme di libri? La forza contro un fenomeno che opprime un territorio che va dal sud al nord, e dire che c'è un gruppo, un insieme di persone, di autori, di giornalisti, di magistrati, di sociologi che insieme scrivono, raccontano fatti che purtroppo accadono realmente nel nostro paese e che possono servire a scuotere le coscienze. Negli ultimi tempi si assiste ad un fiorire piuttosto ricco di libri sulle mafie, ma perché c'è poco spazio sui giornali per parlarne? In qualche modo i libri si sostituiscono all'informazione così quotidiana, oppure effettivamente c'è una grande attenzione da parte del pubblico? C'è una grande attenzione da parte del pubblico, io penso che le statistiche ce ne danno ragione, che i libri sull'attualità sono sempre più quelli più venduti, ma per il semplice fatto che sui giornali non è che non si vedano di questi argomenti, è che c'è poco spazio per trattarli, per raccontare la collusione di un politico, di un pubblico amministratore, di qualcuno che è in vista, bisogna avere molto spazio. I giornali non sono, comunque non c'è un grande spazio su cui raccontarli, per cui ti limiti a fare soltanto la cronaca. Il libro invece ti dà la possibilità di analizzare un fenomeno, dei fatti, di raccontare e di entrare più nello specifico nell'argomento, e la gente in questo momento ha bisogno di approfondire, ha tanta sete di sapere, e lo trovo in questi libri. A che punto siamo nella lotta alle mafie? Com'è questo momento? Ma siamo a un punto, come dice il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, in cui si può dare una svolta o si può ottenere un grosso successo. Bisogna che le persone, se nel sud hanno coscienza di questo fenomeno, perché ormai da secoli purtroppo ci convivono, al nord questa coscienza non è ancora arrivata. Allora, finché pubblici amministratori o la gente imprenditoriale, ecco, non si accorge di avere accanto la mafia, è difficile combatterla. che cosa accade? Che la mafia al sud in qualche modo sta subendo, ha subito grandi colpi da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, latitanti arrestati, collusi, condannati. Ma tutto ciò porta a un trasferimento, a un'emigrazione della criminalità organizzata verso zone dove è più fertile a mettere radici. E così hanno fatto i mafiosi calabresi, campani, siciliani. Sono arrivati in territori dove c'era un'economia fertile, libera, pulita, e purtroppo l'invasione delle mafie le ha attaccate e con questo virus li sta danneggiando. La celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia passa anche attraverso la visita di alcuni luoghi simbolo, come l'ossario di Custoza, Roberto Bonaldi. Il suo passato rievoca scene di scontri. D'altronde, le sue terre, nell'allora Regno Lombardo-Veneto, sono state teatro della prima e della terza guerra di indipendenza. E sulle stesse colline Edmondo De Amicis ha ambientato il racconto del tamburino sardo, ferito sul campo di battaglia. Ma Custoza vuole trasmettere un messaggio di pace, un invito alla comprensione e alla convivenza fra popoli che questo paese, nella provincia di Verona, lancia in particolare con un monumento. Sul colle più alto di Custoza c'è infatti un ossario. Sembra un grande obelisco e custodisce le spoglie dei caduti nelle battaglie del 1848 e del 1866. Italiani, ma anche soldati dell'impero austriaco. Nemici in vita, morte li adeguò, pietà li raccolse, si legge in una lapide. La storia di questo monumento si lega a quella di Don Gaetano Pivatelli, parroco del paese che alla fine dell'Ottocento si muove per far costruire l'ossario. Un'attività diplomatica la sua che supera i confini nazionali, lo racconta Filippo Bricolo, assessore alla cultura del comune di Somma Campagna, di cui Custoza è una frazione. Il parroco arrivò a Custoza alcuni anni dopo la fine della battaglia del 1866 e si trovò queste madri che arrivavano in paese e non sapevano dove deporre un fiore, i parenti che non sapevano dove piangere, i figli, i padri caduti nella battaglia. Allora Don Pivatelli si prodigò, realizzò messe di suffragio, scrisse ai giornali, fece sottoscrizioni, fin tanto che nel 1875 fu poi costituito un comitato promotore per l'erezione del monumento. Don Pivatelli scrisse addirittura ai re d'Italia e all'imperatore d'Austria per riuscire a arrivare alla costruzione di questo monumento. L'ossario viene inaugurato il 24 giugno 1879. Diverse le istituzioni presenti per rendere omaggio alle spoglie degli oltre 2000 tra caduti italiani, austriaci e ungheresi raccolti nell'ossario. Erano presenti le autorità italiane e le autorità austriache. E ci sono dei discorsi molto belli dei senatori, degli onorevoli, che dicono proprio in questo luogo sacro questi due popoli che sono combattuti si stringono la mano. E c'è addirittura un discorso molto bello del senatore Villa che dice: se un giorno anche un piccolo lampo dovesse offuscare il cielo di questa Europa, basterà venire a Custoza. Per chiarirsi un po' l'idea, ecco, purtroppo il messaggio di Custoza non è stato ascoltato, perché il Novecento non ci avrebbe dato dei drammi così grandi. Questo messaggio di pace lanciato dallo non resta del tutto inascoltato. Durante l'anno a visitare il monumento arrivano giovani, anziani, da soli o in comitiva, dall'Italia ma anche da Austria e Ungheria. Un riavvicinamento dei popoli sostenuto anche dalle manifestazioni locali, come quella che ricorda l'inaugurazione del monumento. Come nell'ossario, le ossa dei diversi eserciti sono mescolate insieme in questa sorta di messaggio comune di pietà e di lotta contro ogni battaglia. Allo stesso modo, i cori provenienti dalle regioni europee, cioè dunque dall'Austria, dall'Ungheria, fondono le loro voci in una sorta appunto di trasfigurazione artistica di questo messaggio che c'è dentro. La manifestazione viene proprio davanti all'ossario. Queste voci si fondono insieme anche simbolicamente a cantare l'inno della comunità europea, l'inno alla gioia. E a proposito di Europa, uno degli obiettivi è far ottenere all'ossario un particolare riconoscimento, come spiega l'assessore Bricolo. Secondo noi, l'ossario di Custoza può essere inteso come uno dei primi, se non addirittura il primo monumento europeo, di un'Europa ante litteram, ovviamente, non un'Europa amministrativa. Un'Europa di popoli che decidono insieme di arrivare all'erezione di questo monumento. La pace tra i popoli è al centro anche delle conferenze in programma tutto quest'anno a Custoza per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Nel 2016 invece saranno passati 150 anni dalla terza guerra di indipendenza e dall'annessione del Veneto all'Italia. Per questo anniversario l'assessore ha un desiderio. Io spero di poterlo festeggiare riuscendo a far sì che l'amministrazione comunale di Somma Campagna possa avere la gestione dell'ossario, perché adesso è di proprietà della provincia di Verona, è gestito dalla provincia, e noi stiamo dialogando molto bene con la provincia stessa per riuscire ad avere la possibilità di gestire questo monumento e riuscire a comunicare questo messaggio di cui abbiamo parlato in maniera sempre più forte e sempre più evidente. Italia in controluce, la seconda edizione, cercateci su Facebook, Twitter, oppure siamo su mail controluce@radio24.it. domani 6:30 la prima edizione su Radio 24.